Allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Amico mio, ce l'abbiamo fatta! Donald Trump! Cruciani, adesso non se ne frega un cazzo. Tua figlia la fai bocciare. Hai capito? Adesso la devi far bocciare. La segui tutte le domeniche a fare i compiti, glieli fai sbagliati e la fai bocciare. Parenzo, adesso il tuo compito è vigilare sull'astinenza di Cruciani. Cruciani, quindi per i prossimi 2 mesi non ci vediamo più? Parenzo, sei un mena sfiga. Abitavi a Siena e la banca più antica del mondo si sta ancora leccando le ferite. Stavi con Monti e sappiamo la fine che ha fatto. Stavi con la Brexit e sappiamo com'è andata. Stavi con la Clinton e sappiamo com'è andata. Parenzo, mandami a fare un culo, ti prego. Beh, amici miei, dopo la vittoria di Trump vogliamo Donato da Varese, Premier e l'M al Quirinale. Ragazzi, io già me lo immagino il primo giorno di Donaldone alla Casa Bianca. Entra, fa: areate che qui dentro c'è puzza di negro. Caro David, ancora non è da 250 euro. Eccolo, fermo, no. Fermo, io, fermo acqua. Solo fermo, acqua. Eccoci solo... qui, champagne francese. Sono venuto qui nella sede del trumpismo italiano apposta per dire che la maggioranza silenziosa ripartirà. Ripartirà dall'America con qualche difficoltà, indubbiamente, perché una piccola bottarella c'è stata, ma sono qua. Nella sede del trumpismo italiano. Ma quale sede del trumpismo? Nella sede del trumpismo italiano. Sono venuto apposta qua a Milano per vigilare. Per... Guarda lì, vedo scorrere le immagini di questo... Scorrere le immagini di questo cosiddetto presidente degli Stati Uniti. Cosiddetto presidente. Perché cosiddetto presidente? Perché anche lui ieri, quando l'ho visto al primo discorso, Che ha fatto? Era imbarazzato, non voleva entrare. Dico, sì, effettivamente che era un po', sembrava basito. Era basito anche lui. Dice, ma sì, stamattina dice, ma ora che cazzo faccio? Ma ora davvero era lì, ha fatto entrare tutti quei cazzi di figli che ha avuto da mogli diverse. La moglie bellissima, una Barbie. Tu ti sconvolgi per questo, anche tu hai avuto figli da mogli diverse, non, scusa. Ma io non faccio cattolico e non faccio il moralista in giro per gli Stati Uniti. Quando, East Coast, West Coast, dicendo che bisogna far più figli, che gli immigrati ci rubano il posto. Io non vado a dire ste fregnacce in giro. Quello lì attraversa l'America e mette... E ieri, quando c'era il risultato, a un certo punto ho detto, President Trump. No, President, who is President? Ha cominciato a imitare un handicap. Quando l'hai visto la prima volta? Quando l'ha visto? Era imbarazzato. Ha detto, e adesso che cazzo faccio io? Davvero vado a costruire il muro in Messico? Sì, ma intanto si gode. Non sappiamo quello che succederà, ma si gode. Si gode. Si gode tantissimo. Lo sai perché si gode? Non per gli americani, noi siamo lontani, non sappiamo quello che farà, eccetera. Per frasi come questa, te la leggo. La signora Borromeo, la conosce la signora Borromeo? Beatrice Borromeo. Beatrice Borromeo, benissimo. Sai con chi è sposata, no? Cioè, sai con chi è sposata, sì. Il signor Casiraghi. Il signor Casiraghi, benissimo. Allora, la signora Borromeo ha scritto, ha scritto. Almeno Veronesi, senti questa cosa, almeno Veronesi non ha visto un mondo in cui Trump è presidente. Questa è una delle più grandi puttane puttanate che ho mai sentito. Beh, forse sai, negli ultimi sei mesi. Certo. Cioè, ha collegato due cose che sono avvenute casualmente nelle stesse ore: la morte del CEO Veronesi, grandissimo personaggio, per carità, e l'elezione di Trump. Cioè, sì, magari se... il dolore di vedere. Il dolore di Beatrice Borromeo, vai a fare in culo. No, ma perché? Questa, poi... vai per questa frase qua. No, vai a fare. È una bravissima persona. Ma sì, ma sarà una bravissima persona. È una riflessione che ha fatto anche lei di pancia. Ma riflessione di pancia. Dovrebbe. No, almeno Veronesi non ha visto un mondo in cui Trump è presidente. Effettivamente. Ma sai, che ne sai quello che c'è in testa notte, Veronesi che è morto? Ma anch'io, è un'offesa al cadavere, scusami, di Veronesi. Ma ieri un'offesa... pure io giravo tutti i canali e tutti i canali dicevano Trump. Erano le 5 del mattino e dico: che razza di informazione è questa? Mi chiedevo io. Mi dicevo: ma come mai tutti dicono Trump? E cambiavo i canali e tutti dicevano Trump. E guardavo la rete e la rete diceva che era Trump. E io non capivo, dico: ma in che mondo sono? Ma buttatevi, mi sono andato a sciacquare la faccia, erano le 6 del mattino e le televisioni continuavano a dire tutte Trump. Io dicevo: ma in che mondo viviamo? Ma com'è possibile? Chiamavo la Rai, dicevo: ma c'è un errore, ma cosa dicono i vostri cronisti? Guardavo Mediaset, guardavo i miei amici della 7, guardavo la maratona mentale, diceva: no, è Trump. Io dicevo: ma come Trump? Non è possibile che sia Trump, sarà Clinton, vi sbagliate? Ho guardato la CNN, la BBC, Al Jazeera, tutti dicevano Trump. Alla fine, stremato, alle 8 sono andato a dormire. E sei crollato. Crollato, morto, distrutto. Io però ho deciso stamattina di partire e di venire qua, nella sede del trumpismo, ad affrontarvi uno a uno, cari miserabili che siete all'ascolto e che state per chiamare. Allora, perché la maggioranza silenziosa Alan è con Friedman, noi. Io vi voglio far ascoltare il motivo per cui godo. Alla fine sono queste frasi che ho sentito in questi mesi. Non è tanto il fatto che ha vinto Trump. Sì, poi a me, una volta che si ottiene un risultato come per la Brexit, dopo due secondi non me ne frega più niente. Signor Friedman, stai già pensando a quale altro stronzo candidato? Ma sì, non me ne frega niente. Quale altro nazista possiamo candidare? Allora, signor Alan Friedman, no, sono preoccupato per questa promessa che ho fatto, che devo mantenere dell'astinenza di due mesi. L'astinenza sessuale di due mesi. Fabbricando un braccialetto elettronico. Non posso intervenire sulla bocciatura di mia figlia che avevo che volevo barattare con la vittoria di Trump. Trump ha vinto, mia figlia spero non sarà bocciata. È quasi impossibile perché è una secchiona e studia come una matta, dunque è impossibile che venga bocciata. Dunque non posso intervenire su quello, se no sarei intervenuto pure. Signor Friedman, Trump è mentalmente un pazzo, mentalmente instabile, ma questo pochi mesi fa. Senti, se arrivassi Donald Trump, io non voglio neanche immaginare quello che può accadere, perché Donald Trump non è mentalmente stabile. Non è sano nella testa, è un pazzo, non so come dire, poro. Donald Trump non è una persona equilibrata, è squilibrato. Stranamente il signor Friedman, forse è in preparazione nei prossimi 10 anni una biografia di Trump, non so, dice: io non dico perché ho votato, perché sono un giornalista e sono in par... Ma come? Ma li mortacci tua? Hai detto che è un pazzo mentalmente instabile, adesso dici perché non ha... No, che... quella... Dai, quella su! Era, non era un a me commento. Questo mi fa girare i coglioni. Quella era una notizia. Mi fa girare i coglioni. Ma quello era un fatto. Ma che pazzo mentalmente instabile? È un genio assoluto, uno che è diventato presidente degli Stati Uniti in questa situazione. È un genio totale. Non ho mai rivelato per chi voto, perché sono un giornalista... I giornalisti che dichiarano il loro voto sono faziosi, quindi non imparziale. Quindi no, non ti dico per chi ho votato. Non ti dico per chi ho votato. Lutwak, come si chiama? Friedman, amico mio, amico, hai detto che è un pazzo mentalmente instabile e poi dice che sei imparziale e non dici... A me queste cose mi fanno girare i coglioni, capito? Queste cose mi fanno impazzire. Oltre a farmi godere invece sono le facce delle persone basite. Non tanto te, Parenzo, perché so che... Cioè, hai un minimo di... alla fine non te ne frega nulla. Ma il primo basito è Trump, eh. Guardatelo quando torna. Siete in macchina, quindi non potete guardare la faccia di... Ma no, guardatelo. Lutwak questa sera alle 3 di notte. Senti, professor Lutwak, che pure ammiro. No, Lutwak. Pensa che... No, senti, alle 3 di notte stasera. Cina. Alle 3 di notte, senti. Su Trump, veramente non credo che lui rimarrà nel gioco politico attivo. Lui non è in nessun senso capo del Partito Repubblicano e credo che dopo questa lunga campagna vorrà ritornare a occuparsi di cose sue private. Gli affari. O comunque riposarsi per un bel po'. alle 3 di notte durante la diretta di Vespa. Il signor Lutwak non so cosa si era fatto, 40 canne, non lo so cosa si era fatto. Ma ancora non c'erano i risultati. Ho capito, però, amico mio, dai, su, alle 2, alle 3. La cosa vera è che nessuno aveva previsto questa vittoria, eh. Io voglio ricordare anche quello che disse qualche giorno fa una signora palestinese che si chiama Rula Jebreal, un'amica tua, signora Rula Jebreal. Sì, senti che cosa disse, senti che cosa disse. Cioè, secondo questa abbiamo Hitler a capo dell'America. No, no, ma senti, se Hitler è capo della Merkel. Forse Hitler forse un po' forte, esatto. Forse, però... Rischiamo che queste si ripetano le politiche di Hitler degli anni 30, perché più o meno è la stessa idea. Hitler... Amica mia, Hitler alla Casa Bianca! Cosa dici adesso con Hitler alla Casa Bianca, che non farà un cazzo di quello che pensi tu? Ciao Cruciani, sono in diretta da Dubai, ma a me del sole, del divertimento non me ne frega un cazzo, ascolto solo la Zanzara, traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno, bredaportoni.com. Vi presento la Zanzara. Ricordiamo che il nuovo presidente degli Stati Uniti, il signor Donald Trump, vuole praticamente impedire agli islamici di entrare negli Stati Uniti. Ricordiamolo, aspetta, ricordiamo. Bravo, le promesse. Sentiamo, vedremo. Le intanto... promesse, appunto. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives. Fino a quando? La nostra America sarà sicura, niente più islamici, non entreranno più, vedremo quello che succede. Pinocchio, ancora non è successo niente. Adesso gli tremano le gambe lì al Donaldone nazionale, gli tremano le gambe nel dover applicare quello che ha promesso, il muro, voglio vedere una pietra dopo l'altra, quel muro lo voglio vedere così, perché non lo farà mai lo farà quel muro col Messico. Vedremo. Senti, anche Grillo sta saltando sul carro di Trump, un po' in ritardo, devo dire, perché all'inizio era piuttosto... Sono due comici uguali. Anzi, voglio dire di più, forse fa più ridere Trump in certi casi. Sai che dice Grillo? Almeno non si paga i suoi comizi. È stato il V-Day di sì, Trump. Sì, questo è vero, il fuck-off. Il certo. Fuck-off di Trump. È vero, Grillo, è vero. Signor Grillo. No, io ho visto delle analogie, lui è stato un grande, è stato uno che ha mandato, ha fatto un V-Day... Quindi bisogna analizzarlo da quel punto di vista lì. Era su tutti i giornali in un modo incredibile, che era contro le donne, contro i gay, contro a favore contro l'aborto, contro qualsiasi cosa, e ha vinto. I blog avevano capito tutto, senti, cioè questa pista di blog avevano capito tutto, ma non è vero, tra l'altro. Allora, gli imbecilli, i barbari, gli scemi, quelli della rete, i populisti, i demagoghi, tutta questa gente qua, che sono definiti così dai grandi filosofi di oggi e gli economisti di oggi, sono quelli che si sono creati un giro di informazione sotto i radar dei media, perché i blog capivano quello che stava succedendo. Siete dei Walking Dead, senti. Io le informazioni su Trump sono quelle che avete dato voi, e allora, dato che io non credo più alle vostre informazioni, di Trump sulla bene, quando li leggeremo adesso vedremo. Ma io, ma cosa c'entro io con Trump? Ma la smettete, brutti Walking Dead, che non siete altro. Morte, gente morta. Allora, c'è un deputato del Partito Democratico che si chiama Ileana Argentin, che dice che Trump è peggio del terremoto. E per questa cosa che io godo, capito? E per questa cosa io godo. Questa mi sembra una sciocchezza colossale. Peggio del terremoto è pure un'offesa a quelli che sono morti esatto, del terremoto. Sì, questa mi sembra una stupidaggine colossale. La tragedia. Non potevamo avere una notizia più brutta per continuare. L'unica cosa che ci può aiutare è pensare che l'hanno bisestile, ma veramente non si è mai visto una disgrazia dopo l'altra. Lo definirei peggio del terremoto, francamente. Peggio del terremoto. È una stupidaggine, soprattutto perché è mancanza di rispetto verso gli americani che hanno votato una persona. Quindi a me non piace e fa schifo, ovviamente, Trump. Però è una follia quella che ha detto questa. Come si chiama? Si chiama Ileana Argentin. Follia pure. È una disabile. Ho capito, è una follia, non c'entra niente. Crozza Lutwak. Io penso che donna non può fare presidente di United States of America. E perché? c'è già stato un negro, basta no. Cose strane. No. Allora andiamo a Forlì, Maurizio, avanti ragazzi, avanti tutta, popolo di Trump, popolo contro Trump, intervenite tutti stasera, andiamo, Maurizio. Io vorrei baciarti in bocca anche se sono eterosessuale convinto. No, perché mi vuoi baciare in bocca, Maurizio? Perché per quello che hai detto meriti questo ed altro. Ma con la lingua? Con la lingua? Con la lingua è un po' dura perché dipende dall'alito tuo. No, con la lingua no, però no, l'alito mio è a posto, però io per due mesi non posso fare un cazzo, te lo dico. Allora, questo è forse peggio, però detto questo... Perché mi vuoi baciare in bocca, dimmi? Perché per quello che hai detto, sei politicamente scorretto e questo io no, io politicamente scorretto è anche un'etichetta, io odio le etichette. Scorrettissimo, ma va bene no, così. Ma non è scorrettissimo, io dico quello che penso e forse dico anche perfetto. Troppo, dico anche no, troppo. No, oggi ho fatto una lunga intervista da Cospin, forse... ho messo in mezzo anche sì. Mia figlia, ma in realtà non è che me l'ho messa in mezzo, l'avevo già messa in mezzo qui. Ho detto semplicemente una volta, ovviamente scherzando, ma non troppo, che avrei barattato tranquillamente per la vittoria di Trump, ma soprattutto io godo nel vedere la faccia di chi ha perso. Bravo, non della esatto, Clinton, la faccia esatto. Degli italiani che tifavano per Hillary Clinton senza capire una mazza, come non capisco io, però io almeno no, non ho allora la prosopopea nel dire che Trump è un anti donne, è un maschilista, è un omofobo e queste stronzate qua. Trump è un libertario che non esatto. Toccherà di un millimetro i diritti dei neri, dei gay, beh, delle donne, eccetera. È contrario a quello che ha detto fino a pochi giorni fa. Allora, totalmente. Adesso, se posso dire, dimmi. Tu sei inutile come un sedere senza buco, quindi io... No, ma questo è interessante, che vuol dire sei ecco, inutile? Ecco il popolo di Trump. Siete apparentemente numerosi. No, è vero, perché ma eccolo qua. Eccolo il popolo di Trump. Che vuol dire? Perché ecco il popolo di Trump. C'è un sedere senza praticamente il suo orifizio naturale. Ecco il popolo di Trump. Ma perché? Il popolo educato. Assolutamente. Eccolo qua. Ho usato un eufemismo, ma è così. In pratica è vero. Cioè, secondo te Parenzo è inutile come un culo senza buco? È la stessa cosa che dice sua moglie. È la stessa cosa che mi ha detto. È la stessa cosa che mi ha detto di lei sua moglie ieri sera. Io sono rimasto. Mentre lei provava a telefonare alla radio, sua moglie era con me a Roma e mi ha detto: sai, mio marito, è la stessa cosa che ha detto tua moglie, uguale proprio alle 18:54. Ragazzi, comunque, il commento migliore, la rosicata su Trump, la più bella, è quella della signora. Io ripeto ancora una volta: la signora Beatrice Borromeo, la contessa Beatrice Borromeo in Casiraghi, che dall'alto dei suoi yacht e delle sue proprietà e della sua ricchezza, ecco il Trump. La sua ricchezza dice: dove... Ma perché è povero Trump? Almeno Veronesi non ha visto un mondo in cui Trump è presidente dell'America. Questa è l'unica. Una puttanata consolazione che può inaudita. Avere. E per queste persone sono contento che abbia vinto Donaldone. Ah, succede, è già successo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Crucia, io c'ho un collega che si chiama di cognome fa Cantacessi. Ce l'avessi io quel cognome lo cambierei all'istante. Cantacessi. Mo. Ragazzi, è semplice. Se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-717-1701. Siamo al top. Allora, ragazzi, Salvini dice che Trump applica il programma della Lega alla più grande democrazia del mondo. Caro Parenzo, di qualcosa tu, ti prego. A parte bisognerebbe ricordare a Salvini che nella foto che lui ha pubblicato dopo poche ore, Trump ha detto: Salvini, who is Salvini? I don't know. Sì, Salvini. Però è l'unico ad avere la foto con Trump, incredibilmente. Sarà di rubacchiata. Ma sì, ma quello faceva le foto con chiunque. Ho capito, intanto è l'unico leader italiano ad avere la foto. Ma sì, ma allora come mai il neo-presidente? Si sarà intrufolato. Faccio ancora fatica a dire presidente, il neo-presidente. Perché fino a gennaio c'è e Obama fino a gennaio. Salvini, Salvini. Trump significa controllo dell'immigrazione, significa smetterla con le guerre fatte a caso in giro per il mondo, significa difendere il Made in USA, quindi anche il Made in Italy, smetterla con i trattati commerciali che avvantaggiano le multinazionali, tornare ad avere buoni rapporti con la Russia e con Putin. Quindi sostanzialmente il programma della Lega applicato alla più grande democrazia del mondo. Adesso il programma della Lega, non esageriamo. Questo è lo stesso paraculo che qualche anno fa però voleva bombardare l'Iraq, voleva cacciare i musulmani, lo stesso che diceva che c'è un pericolo del terrorismo islamico e quindi andavano mandati i soldati in guerra. È lo stesso Salvini che qualche tempo fa diceva questo, è un altro Salvini. Allora senti quest'altra, la Comi, te la ricordi? Europarlamentare di Forza Italia, cioè, lei sì. È clintoniana, se non ricordo no male. No, dice con no, non credo che provo che sia a favore di Clinton, comunque in questo non caso era a favore di allora con Trump. Trump Berlusconi torna protagonista della politica estera, tu dimmi qual è il collegamento tra queste due cose. Questo non credo. Da questa vittoria di Trump io ho trovato un aspetto molto positivo, che il presidente Berlusconi diventa di nuovo il protagonista di una politica estera di dialogo tra Trump e nello stesso tempo Putin. Questo è l'unico. Puttanate. In libertà, puttanate in libertà. Allora, adesso dovete sentire bene questa frase, resistete per un attimo, ma è secondo me una specie di disprezzo nei confronti del suffragio universale e del voto delle persone. È pronunciato dall'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Senti, l'evento più sconvolgente della storia del suffragio universale, senti, la vittoria di Trump. Ma siamo dinanzi a uno degli eventi più sconvolgenti della storia della democrazia europea e americana, direi uno degli eventi più sconvolgenti della storia del suffragio universale, che non è sempre stata una storia lineare e di avanzamento da tanti punti di vista delle nostre società e dei nostri stati, è stato qualche volta l'esito di elezioni a suffragio universale anche foriero di gravissime conseguenze negative per il mondo. Allora, ragazzi, è vero che Hitler fu votato, forse si riferiva a quello. Appunto. Sì, però c'è in questa frase di Napolitano, dell'ex presidente Napolitano, un disprezzo nei confronti del suffragio universale quando le cose non vanno nella direzione voluta. Siccome oggi non c'è un pericolo di Hitler, inutile evocare cose del passato. Allora, avere questo disprezzo, dice una tragedia del suffragio universale. No, ha vinto un signore che è semplicemente un cittadino americano, un maverick, come si dice, un imprenditore, un finanziario, ma uno sfasciacarrozze è la tua idea. Magari lo sarà uno sfasciacarrozze. Come aver mandato al governo YouPorn, praticamente. Ma non dire cazzate. Adesso ma sarà lecito per strada fare le battutine alle donne, dare una ora secondo me già ieri ha cambiato passo, appena sì, effettivamente ieri è stato moderato, già ieri stamattina è diventato un po' agnellino, mi è sembrato stamattina agnellino. Un discorso molto totalmente conciliante. Sì, Clinton ha fatto delle cose importanti, fino a un'ora prima c'erano questi sostenitori di Trump che avevano le magliette, 2016 prison for Clinton c'era scritto, questa era la campagna. Purtroppo a dire no, ma lei è stata fatto delle cose importanti. Cittadini americani, vi ha preso per il culo quel miliardario lì. Ma dovete capire cosa devo fare, poi che cazzo devo alzare il microfono. Stamattina appena ho visto visto Trump fare quel discorso lì, agnellino bastonato, come se avesse perso l'elezione, ho detto Trump, ma non è entrato trionfante con delle porno star, Clinton in prigione, dando un calcio a un uomo di colore che era lì, c'era un camera di colore terrorizzato, ma dagli subito un calcio, via negro, no, la Clinton rimanda in onda in quel cavolo di archivio di questa radio qua, da questa trampiana radio, rimanda Gianpietro da Bologna, ma chi Gianpietro, chi se ne frega. La Clinton ha fatto delle cose importanti. Hai detto che non era criminale. La volevi in prigione. Le magliette c'aveva. Prison. Hillary in prison. Come in prigione? Questo mi ha deluso un po' anche a me. Mi ha deluso, ma perché questi qua sono degli sfasciacarrozze a tempo determinato. Ecco, bello questo. Meglio di pane bianco. Sfascia carrozze a tempo determinato. Importante che sia a tempo determinato. Però, a differenza dell'Italia. Strano che l'avevano preso come columnist al Sole 24 Ore. A differenza dell'Italia, sono a tempo determinato. Questa pare che è bella, però. Ha detto una cosa intelligente. Sfascia carrozze a tempo determinato. È bella o no questa? Gian Pietro Bologna, dai. Sfascia carrozze a tempo determinato. Vai, Gian Pietro, dimmi. Buonasera. Allora, io vorrei dire a Parenzo che non metterei in carcere a Clinton, dovrebbe essere giustiziata. Ecco, Trump. Ma non perché, ma anche Trump. Giustiziati a Trump. Perché, sì. Gian Pietro? Andiamo sempre oltre. Andate sempre oltre ormai. Andare oltre. Sì. Beh, questi sono responsabili, Trump e magari non direttamente, ma questi sono responsabili di guerre in giro per il mondo. Sì. E dunque? Sono amici di arabi che finanziano l'ISIS. Questo è vero, la Clinton. E quindi... sono gente responsabile di centinaia di migliaia di morti. E dunque la Clinton andrebbe giustiziata. E dunque la Clinton, la Clinton andrebbe giustiziata per crimini contro l'umanità. Sì, questo è quello che lei dice, quello che diceva Trump fino all'altro ieri. Della Clinton. No, della, no, con lo stessi argomenti, Trump, anche in parte veri, perché è vero che i finanziamenti della Clinton... per quanto è un po' come quando qualcun altro nel passato è sceso in politica, no? Come fuori dai partiti, eccetera, eccetera, come Berlusconi, che poi dopo aveva i suoi guai fiscali, no? Cioè tu dici Trump fa politica per quello, non credo. Politica e quant'altro. Poi senz'altro c'è una... Ma perché una... Trump andrebbe giustiziato? Non ho capito. Ma giustiziato per i suoi crimini, nel senso che fa parte di un establishment che anche lui, per quanto... Cioè la finanza, dici, la finanza... Per quanto parli contro i musulmani, poi gli sceicchi li riceve tranquillamente con i jet, quindi... Cioè, è tutto molto ipocrita da paraculi, cioè, quindi anche come dicevate prima, che sembra Barnard questo qua, sembra Barnard, è una profonda analisi che adesso deve fare i conti con le borse, con i mercati. Va bene, Gian Pietro, ciao. Lucio Verona, vai. Sì, gli americani dovevano scegliere tra una merda grande e una merda piccola. Tu che sei un pirla, hai scelto la merda grande. Io sono un pirla, ho scelto la parte che non ho scelto. Trasmissione... Aspetta, la vittoria di Trump. Io sono convinto che tu, essendo un grande pirla, avresti anche desiderato la vittoria di Hitler per avere la trasmissione divertente e la vita divertente. Sì. Perché tu sei uno di quei giornalisti pirla che nella storia e nell'arte sono stati i paraculi, i leccaculi delle merde. Sì, e però tu sei un paraculo, devi stare un leccaculo delle merde. Però devi stare, devi stare tranquillo, perché la medicina oggi è effettivamente merde grandi. Però effettivamente però Lucio, alla povera gente. Sì, Lucio, la medicina, per massacrare la povera gente. Lucio, la medicina... Il Partito Comunista è fuori legge! Ragazzi, che cazzo dici democrazia? Facciamo partire, dai. Il Partito Comunista è fuori legge in America! Sì, aspetta. E questa è la tua democrazia, ecco, pirla! È tanto tempo che non lo usavamo, Lucio, è tanto tempo che non lo usavamo. Cosa? No, niente, questo suono, lo vedi, lo senti, il suono, no? Questo suono. Sì, ma cosa? Tutti lecca culo e me sega attorno a te. Perché scusa, Lucio, da quanto tempo è che non prendi... Sì, ma da quanto tempo è che non prendi qualche medicina? Perché mi sa che qualche giorno sono in ritardo le medicine, mi sa, eh? Le medicine sono in ritardo. No, guarda che la medicina la prendi tu, ma tu prendi le supposte. Io sì. E le metti tu agli altri, capito? Tu fai mettere sulle supposte agli altri. Ma come tu mai? Ma come mai sei? Ma come mai le supposte le fai mettere su a chi poi pagherà questo coglione di merda grande di Trump, capito? Sì, tu Lucio. Fai pagare i lavoratori, ma devi stare no? Io non c'entro niente. Devi pagare col tuo amico Salvini. È un pirla, che tu sei un leccaculo di Salvini. Ma perché tu sei grande leccaculo, perché, di Salvini, perché sei ridotto così? Poi pagheranno i lavoratori, perché sì, i lavoratori nella storia grande cracaro, grande pirla. Sì, Lucio, non ti sentiamo, non ti sentiamo. La destra. Vabbè, ciao Francesco, destra, da Napoli. Mi hai rotto i coglioni. Ciao Francesco da Napoli. Buonasera. Dimmi. Festeggerete per poco, Luciani. Perché? Dimmi, Francesco, perché? È perché gli faranno fare la fine di Berlusconi, i cugini del signor Parenzo. Sì. Gli faranno il colpo di Stato. Adesso potete festeggiare. Siamo passati al colpo di Stato contro Trump. Già in 3 secondi. Appena eletto. Potete festeggiare, potete festeggiare tu, Salvini, Borghesio. Tutti i razzisti del mondo. Borghesio. Potete... Borghesio. No, si chiama Borghesio, non Borghesio. Ah, Borghesio, chiedo scusa, sono meridionale, non pronuncio. E che cazzo c'entra che sei meridionale? Che sei... E non pronuncio bene la pronuncia. Ma che quello si chiama Borghesio. Si chiama Borghesio. Che sei ignorante. Borghesio, sbagliato, ti chiedo Borghesio, scusa. Borghesio, non Borghesio. Borghesio. Borghesio, va bene, Borghesio. No, con Borghesio. Borghesio. Borghesio. Sì, Borghesio, bene. Allora ti ti spiego una cosa. Secondo te, no? Su Borghese, secondo come si dice te... Borghese? Come si pronuncia? Borghezio. Borghezio, fermo lì, fermo lì. Perfetto. Fermo. Blues for Zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Allora, caro Parenzo, è in diretta con noi da Londra uno dei pochi italiani amici del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Flavio Briatore. Buonasera, ciao Flavio. Ciao, siete ancora lì voi due? Ancora, siamo, io ancora sono non qui ci hanno cacciato. A difendere... Vai. A difendere ancora. Perché dici così? La povera Hillary. Pensavo avessero già cacciati. Dai. No, ancora no, ancora no. Sai, a momenti. Confindustria ha altri problemi di cui occuparsi, come sai, che non cacciare noi. Come tu sai benissimo. Senti, quando hai scritto la dimostrazione che i sondaggisti, opinionisti e giornalisti non capiscono un C, che significa sostanzialmente un cazzo, a chi ti riferivi? No, vuol dire cavolo, vedi, voi siete sempre... Adesso un C avresti scritto cavolo, altrimenti l'avresti sì, scritto... Sì, no, io lo conosco, che voleva dire cavolo. Ma lo conosco perché allora... so che è educato e non dice mai parolacce. Cazzo. Un cavoletto? A chi ti riferivi, Pippo, Flavio? Per... No, dicevo che... tutti questi sondaggisti, non so, anche ieri sera, quando era ormai evidente sì. che Trump aveva vinto, continuavano a dire aspettiamo la Pennsylvania, pensiamo, perché non accettavano, no, la vittoria. No, sono Trump, militanti, era... militanti, capito? Sono militanti, è più forte di loro. E la cosa drammatica è questa, che i sondaggisti, se avessero seguito Trump, fossero stati negli Stati Uniti, sì. capivano che Obama, la politica di Obama, di Hillary era finita, sì. Solo che rimangono tra un salotto e l'altro sì. E parlano come se conoscessero l'America, non hanno nessuna idea di dove è l'America. Ma a chi ti riferisci in particolare? A chi ti riferisci? No, tutti quanti, più o meno tutti quanti. Tutti. Senti, ma la realtà è che c'è un tizio che ha fatto, cioè, ma non è che magari ti candidi tu dopo che si è candidato Trump? No. C'è l'esempio di Trump, che è un imprenditore, eccetera, eccetera, che si candida in politica, ti suggerisce magari l'idea di farlo anche tu? No. Mai succederà. A meno che non ho voi due come supporto. Ma io figurati, cioè, magari fosse possibile. Secondo me, se tu ti candidi vinci a mani basse, cioè non è che potresti vincere a mani basse, o no? Sì. Con questi che ci stanno adesso... Senti, Trump è stato accusato di essere omofobo, di essere misogino, di essere contro le donne. Contro gli islamici, contro sì, l'immigrazione. Vabbè, ma quello che... secondo te, tra quello che difatti, ha detto... Difatti chi l'ha votato sono i bambini, hanno votato Trump. Perché sentire i nostri soloni, le donne non l'hanno votato. Gli ebrei non l'hanno votato, i messicani non l'hanno votato. Sono rimasti i bambini. Ma secondo te lo farà questo famoso muro? Cioè, quante cose attuerà delle cose che ha detto? Perché ne ha dette. Io credo che il muro di Trump sarà un po' come il ponte nostro. Come il ponte sullo stretto. Bravo, dice. Esatto, vedi? Sì. Perché è un cacciaballe. Beh, ma questa la politica è fatta così, ma Flavio lo sa, si raccontano un sacco di cose, poi quello che riesce a fare, se riesce a fare il 20% è tanto, o no? Ma io credo che se riuscisse a fare il 20% sarebbe enorme. Credo che sarebbe una roba incredibile. Senti, però io godo perché ci sono oggi mi sono tirato giù l'elenco delle star americane, no? Che hanno votato, che hanno votato e hanno fatto. Hanno supportato. Ce n'è solo uno che era a favore, più o meno di conosciuto, che era a favore di Trump, che si chiama Clint Eastwood. Clint Eastwood. Quello che spara. Gli altri piangono. Lady Gaga piange, ha pianto. Madonna ha promesso, come sai, delle cose. Beyoncé. Ma vedi, la gente non gliene frega un cavolo, la gente ha problemi dello stipendio, problemi delle pensioni, problemi di lavoro, di Beyoncé, di così. Non gliene frega assolutamente niente. Questi endorsement sono anche negativi. Sì, questo è vero. Anche perché la gente ha votato Trump perché è un voto contro Hillary, perché Hillary era veramente impresentabile. Perché impresentabile secondo te? Perché rappresentava... Scusa, perché continuiamo, io non sono in America, e anni ci sono due famiglie che più o meno contro gli Stati Uniti, abbiamo avuto i Bush, padre, figli, nipoti, sì, abbiamo avuto Hillary Clinton, sembra che non esista nessun altro. Cioè sarebbe stata una dinastia. La gente ha messo una barra e dire adesso basta, e Trump è arrivato nel posto giusto, al momento giusto, e anche la politica di Obama, l'America di Obama era finita. Ma chi ti ricorda più scusami Flavio, ma chi ti ricorda di più, Beppe Grillo o Berlusconi, Trump? Ma sicuramente Trump mi ricorda molto di più Berlusconi, non Beppe Grillo. Anche se Berlusconi, mi segnalano che nei confronti di Trump si vede che è un po' bollito. Nei mesi scorsi ha detto è un incrocio tra Salvini e Grillo. Tra luglio e agosto vorrei una donna alla Casa Bianca. Trump parla all'America arrabbiata. Se fosse eletto, Trump sarebbe il presidente più incosciente della storia americana. Così mi hanno... Ma io credo che da domani tutti crederanno, no? Perché ha fatto anche tutti? Io credo che tutti crederanno su Trump. Ieri sembrava oggi succedesse una catastrofe finanziaria. Invece oggi non è successo nulla. Sì. La borsa è salita, il dollaro è salito. C'è una persona che farà un team importante, farà un team molto forte. E l'America cambia, ha dato una grande dimostrazione all'America. Senti, Renzi è formalmente contro Trump, naturalmente, però secondo me no, tra i due qualche somiglianza c'è, o no? Somiglianza fisica? Somiglianza? No, fisica non mi pare proprio, insomma. No, somiglianza così nel piglio, no? Nel piglio, no? Nella... No, ma Renzi sicuramente, io non vedo un'alternativa a Renzi. Sono nonostante che tutti di nuovo in Italia abbiamo questo referendum. Tu voterai sì? Che Trump ha promesso cosa? Promesso lavoro, promesso il fare, sì. Ha promesso l'amministrare, non più la politica, non più. Sì. E vediamo cosa succede. In Italia dovremmo fare la stessa roba. Dovremmo cominciare a dire sì, non sempre no a tutto. Dunque tu voterai sì? Io non sì, mi sembra di capire che sì, ma se dovessi votare, sì, sicuramente. Cioè, perché è una cosa come per andare avanti, il sì, no? Cioè, non è... No, non, ma non sì, è... ma noi siamo già paesi stati bloccati alle Olimpiadi, diciamo no, al ponte diciamo no, al testo diciamo no. Non è che siamo in una situazione per dire no, dobbiamo veramente darci una mossa e cominciare a dare dei sì e cercare di modificare, di trovare il lavoro... Senti, un'ultima cosa Flavio, ma l'altro giorno ho visto un'imitazione di Crozza con su di te, la solita imitazione con i Pastori Sardi, ma ti dà fastidio o ti fa piacere? No, ma guarda, i Pastori Sardi sono delle persone eccezionali. No, ma l'imitazione di Crozza... Non l'hai vista. Vabbè. Cioè, essere imitato da Crozza è un onore. Un onore. Vabbè, Madonna dovrà rimandare le sue prestazioni. Forse inizierò voi due, cavolo. Ma cioè, no, vedi, mia. Vedi che non ho detto cazzo, cavolo. Ma no, lo dici anche cazzo, dai, su. No, io non l'ho mai sentito. Ma cazzo non è mica una parolaccia, io, ragazzi. Ti assicuro, non ma l'ho se mai siete sentito. Rimasti a cazzo una parolaccia, ma io ti assicuro, siete morti. Lui è di cultura anglosassone, non dice. Scusami, tu sei un tifoso, sei amico, conosci Trump, l'hai conosciuto tu, Apprentice, eccetera, eccetera. Trump è uno che ha sdoganato, non le parolacce, ha sdoganato in televisione il sesso, le cose più che considerate, che per me non sono volgari, che lui è stato considerato volgare per le cose di cui vengo accusato io di essere volgare. Ha sdoganato tutto, esatto. Trump, tu qualsiasi esatto. cosa, la parola altro che ci ha parlato, cioè, di qualsiasi Cruciani cosa. Cruciani si sta candidando a Palazzo Chigi. Ma assolutamente no. Cruciani ci candidi adesso. Comunque Hillary sei fuori, come ad Apprentice, Hillary sei fuori. Hillary sei fuori. You're fire. Senti, ma un'ultima cosa, Madonna deve rimandare le sue prestazioni sessuali. Sì, Madonna adesso fa anche lei che si... che fanno il giorno, a me fanno anche pena, sì, ragazzi, sì, perché non capiscono se l'America non è più l'America che vogliono loro, l'America è cambiata. A me fanno più impressione alcune cose italiane. La contessina Borromeo, l'ho citata prima, ha detto questa frase, ha pronunciato, la conosci, no, Beatrice Borromeo? Sì, almeno Veronesi non ha visto un mondo in cui Trump è presidente. È un dato di fatto. Ma dai, su, ragazzi, dai. Stupidaggi, dai, ciao. Ti saluto, ciao Flavio, ciao, ti abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Chi ascolta Zanzara voglio scompisciarsi e risate. Quando sogno Casellico senza nord voglio ridere, ridere, ridere. La Zanzara. I'm a man. I stay out. Allora andiamo a Milano, Stefano, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Sì, anch'io come Cruciani sto godendo alla grande. Guarda, appunto per tutti questi sinestroidi del cacchio che veramente sono allucinanti. Oggi ho sentito una parlare in un'altra trasmissione sempre su Radio 24, mi sembra una scrittrice dall'America, che era scioccata, dice purtroppo, meno male, dice non sono musulmana, però purtroppo una figlia femmina disabile, non so cosa succederà. Ma che vuol dire, cioè, purtroppo una figlia femmina? Detto, ma queste, cioè, sono delle deficienti. Sono fuori di testa. Veramente questo. Beh, no, alludeva a quella vergognosa imitazione che il vostro neo presidente degli Stati Uniti ha fatto di una disabile. Se lo ricordano tutti perfettamente, Lorenzo, quella gaffe clamorosa che Trump ha fatto durante un comizio imitando la voce. Gli altri non devono parlare, non devono esistere. No, cioè, in America hanno votato Trump tutti i bifolchi, contadini, ignoranti. No, non ho detto questo. Quelli di colore, gli ispanici, sono notoriamente tutti illuminati, degli scienziati. A parte, no? Che molti di quelli hanno votato. Tutti, no, quelli hanno Cristo, votato per. No? No, probabilmente molti degli immigrati hanno votato Trump. Perché l'immigrato, anche quello, è di destra. Perché a un certo punto dice: non vogliamo più nessun altro che entri, ci siamo noi. E molti immigrati probabilmente hanno votato Trump. Stefano ha ragione. Queste preoccupazioni di gente che dice: io sono preoccupato perché ho mia figlia, perché che è una femmina, se una io donna. Fossi ma preoccupato per cosa? Se io fossi cittadino americano di fede islamica, e che cosa? Con la vittoria di Trump sarei seriamente preoccupato. Se non hai fatto un cazzo, se non hai fatto country. Niente, non sei amico di terroristi, no, non ma ti del, devi clima, del clima, ma quale clima che lui ma ha creato clima? In campagna elettorale di caccia alle streghe, di caccia al terrore. Ma quale caccia alle streghe? Non è successo nulla, Marco da meno Bergamo, male. Dai, su. Ma meno male. Dai, Marco, vai. Sì, ciao. Niente, io volevo solo dire questo. Io dico che in questo momento c'è un bel po' di cazzari che dovrebbero dimettersi. Cioè, abbiamo avuto per mesi e mesi giornalisti e sondaggisti che ci hanno fatto due palle così, dicendoci che la Clinton volava, la Clinton era più però 12. Questo lo dicevano tutti, addirittura ieri un sito che si chiama Huffington Post America ha detto che le probabilità di vittoria fino a ieri pomeriggio, le probabilità di vittoria, fino al 7 anzi, le probabilità di vittoria della Clinton erano del 98%. Sì, poi sappiamo che questo, quello è un sito a favore della Clinton. Erano le probabilità di vittoria della Clinton del 98%. No, vi segnalo che anche al quartier generale di Trump, ieri, il signor Trump, a un certo punto, visti i primi risultati, era già pronto a fare ricorso, a negare a negare l'ipotetica vittoria della Clinton. Marco, che vuoi dire? I primi non credo, ci sono loro. Quello che voglio dire io è che l'operazione che è stata fatta per mesi è stato tentato un lavaggio del cervello. No, quello non c'è dubbio. Teso a fare in modo che le persone credessero che oramai i giochi fossero fatti. No, Marco, che non solo, non solo questo, votare. È stato dipinto Trump come un sessista, una persona volgare, schifosa. Beh, addirittura tale, dopo la vicenda, ma quando quale, mai? Tale dopo, si è mostrato dopo in campagna elettorale. Dopo aver mandato online dei filmati vecchi in cui sosteneva che un uomo potente descriveva una situazione reale, cioè un uomo poi era un Trump, diciamo, che partecipava. E la stampa al talk bellezza show. Dicono negli Stati no, Uniti. No, ma va benissimo che vale l'abbiano tutto, fatto. Vale però tutto. C'è stata un'aggressione, per carità legittima, io ritengo tutto legittimo, un'aggressione da parte della maggior parte della stampa nei confronti di Trump. Perché ovviamente è facile, no? Cioè è più facile giocare con Trump che giocare sulle cose segrete della Clinton. No, è stata una roba criminale. Una cosa criminale. No, criminale perché chi vuole fare il lavaggio del cervello agli elettori è un criminale. Comunque, in ogni caso, quella frase là famosa su cui addirittura si pensava che Trump potesse ritirarsi, invece oggi è presidente, era questa. Cioè lui diceva che un uomo potente con una donna può fare quello che vuole. Cioè qualsiasi donna di fronte ad un uomo potente e ricco lascia fare a quest'uomo potente e ricco qualsiasi cosa, ed è la verità, disse la verità, poi disse anche, no, si può mettere, no, la mano sulla figa tranquillamente, sì, cos'è che delle disse? Cose incredibili. Va bene, Antonio, Bari. Buonasera. Vai, dimmi. Senti, con te mi prenoto per un goccio di champagne. Amico mio, lo champagne sta qua però. Ottimo. Con Parenzo volevo dire, ma chi è che si reputa depositario della verità quando la maggioranza degli americani hanno votato per Trump e lui dice comunque che sono tutti degli imbecilli? A quel punto, quando gli conviene, non mi pare di aver detto mai nulla di tutto questo. Ho mai detto, guarda, che non l'hai detto, ma ho mai detto che gli elettori americani sono imbecilli? Sì, la maggioranza sì, perché dire che hanno votato uno come Trump vuol dire, certo, che la maggioranza degli americani no, sono hanno degli votato idioti. Si sono riconosciuti quindi in un personaggio che si è fatto conoscere. Sì. Ma d'accordo, ma chi è quel giornalista? Abbiamo visto i giornalisti, la figura che hanno fatto. Scusi, non c'è dei giornalisti, ma ho fatto io l'imitazione di un handicappato durante un comizio in campagna elettorale, prendendolo in giro. Ho fatto io le battute sessiste, ho detto io che avrei costruito, ho detto io che avrei costruito un muro con il Messico. Ma dai. Quando conviene, la più grande democrazia del mondo sono gli americani. Quando non conviene, sono una massa di imbecilli. No, mi sembra un po' strano. Per me, quando si vota, quando si vota in democrazia, va sempre bene. Antonio, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, voglio farti sentire, caro Parenzo, il nostro amico Mandarà. Divertiamoci un po' con Mandarà. Oh, Mandarà, Salvo Mandarà. Sì. Sai chi è Salvo Mandarà, no? Ah, sì, non è... Ex cameraman di Grillo, che adesso dice che è caduto in povertà. È caduto in povertà, mi dispiace. Ti dispiace che è caduto in povertà? Sì. Francamente, me ne frega niente, mi dispiace. Ah, non te ne frega nulla? Della persona in sé, no, mi dispiace quando uno cade in povertà. Beh, dopo è caduto in povertà. Cioè, dice che si è dovuto trasferire a casa dei suoi, cose di questo tipo, perché gli è andata male. Sai quanta gente purtroppo cade in povertà? Comunque, vabbè, Salvo... Gli è andata male, è matto. Salvo Mandarà, vai. Ma tu veramente credi che tutto questo sia tutto pulito? Il popolo che si è sollevato contro l'establishment? Ragazzi, mi piacerebbe tanto crederlo, ma io onestamente sono troppo complottista, non mi piace usare questa parola, mi arrabbio quando qualcuno la usa per definire me o comunque coloro che la pensano in questo modo, però secondo me qualcosa sotto c'è, cari amici, qualcosa sotto c'è. Ma scusatemi, ma il fatto che hanno fatto uscire tutto quel casino delle mail della Clinton... che poi l'FBI ha chiuso tutto proprio un giorno prima del voto. Ma secondo voi questo comunque non è stata una grande botta data alla Clinton, poverina, per far vincere Trump? Il complotto contro la Clinton a favore di Trump. Non sono contento per il fatto che abbia vinto Trump, ma sono felice per il fatto che non abbia vinto la Clinton, quindi non vorrei essere frainteso. Quindi fanculo Parenzo, fanculo il PD italiano, fanculo Obama e tutti quelli che volevano che la Clinton vincesse. Per carità, bellissimo, grande soddisfazione. Voglio vedere cosa combina il mio amico Cruciani, che ha promesso, lui diceva, è da una settimana che dice non succederà, ma se succedesse... Cioè, non vincerà Trump, ma se dovesse vincere farà cose matte. Mi pare di aver promesso astinenza per 3 mesi e poi bottiglia di champagne da 750 euro. Vabbè, staremo a vedere. Chi se ne frega di quello che fa Cruciani? Prima ne parli e poi dici chi se ne frega. Comunque l'astinenza è 2 mesi e la bottiglia di 250. Ecco, cominciamo col dire che anche tu sei uno sfasciacarrozze a tempo determinato, perché la bottiglia costerà 22 euro. No, la bottiglia costa 60. Questa qua ho detto, non è quella, quindi, non questa è quella già che devo cominciamo comprare. Così. E sulla astinenza sessuale, fino a quando non abbiamo comprato il braccialetto elettronico, è difficile da provare. Ma quindi no, le siete, telecamere, esatto. Siete dei cazzari, tu e Trump. Ancora Mandarà. Senti. Ci sono metodi di qualunque genere per far fuori un presidente, quindi se facesse veramente gli interessi del popolo durerebbe veramente da Natale a Santo Stefano. Ecco, quindi o perché lo farebbero fuori in modo politico o perché lo farebbero fuori in modo fisico. Non si fanno problemi, ma la CIA si fa problemi secondo voi ad ammazzare un presidente? Hanno ammazzato 3.000 persone l'11 settembre. No. Più che a casa dei suoi deve essere ricoverato urgentemente in un reparto di ideale psichiatria. Per massoni e Mossad per fare un attentato. Senti, no, per sempre Mandarà. A proposito, oggi è il 9-11, ma c'è una cosa ancora più bella nella numerologia. Ascoltate, provate a prendere 9-11-2016, scrivete 9-1-1-2-0-1-6. Sapete quanto fa la somma? La somma fa 29, 9 più 11 fa 20, 20 più 2 fa 22, 22 più 1 fa 23, 23 più 6 fa 29. 29 e 2 più 9 quanto fa? 11, ancora una volta. Questo è un giorno bellissimo per i massoni, quelli della CIA, del Mossad che organizzano gli attentati, per fare un bell'attentato. Oggi è il giorno ideale. 3 più 2 fa 5, 5 più 1 fa 6, sei un cretino. Ragazzi, ma come si fa? 3 più 2 fa 5. 5 più 1 fa 6. Manderà 6 un cretino. Proprio un cretino. Un cretino, un cretino. Cioè un cretino. 9, 11, 2016 fa 29. 9, 2, 11 e dunque. Va, fa culo, va. Dai. Sì, pronto, segreteria di Donald Trump? Ah, è la zanzara? Vabbè, uguale. La zanzara. Ah, Giuseppe, ti avevo detto io che auspicavo il summit Trump-De Luca. Cazzo, Cruciani, vai Donald! Allora ragazzi, io godo soprattutto però quando... Quando dicono Donald, intendono Donald Duck o Donald Trump? No, Donald Trump, ah, Donald okay, Trump, dai, non fare il cazzone. Allora, no, anzi, fai il cazzone quanto ti pare. Allora, ci sono alcune persone che mi fanno godere. Io le accomuno nella categoria star americane. Ci sono anche quelle italiane, ovviamente, però sai, ci sono le elezioni in America che sono pronunciate un po' meno. E insomma, un po' sulla sull'onda di Robert De Niro che ha dato dell'idiota, dell'idiota a Trump. Bisognerebbe bastonarlo, cos'è che ha detto? Sì, no, non mi ricordo. Di tutto, calci del sedere. Sì, amico. Sì. Allora, Katy Perry ha detto "Nessuno potrà farci tacere". Ma chi cazzo ti vuole far tacere? Hai parlato quanto hai voluto, hai detto quello che hai voluto. Non lasceremo che ci guidi l'odio. Non lasceremo, amica mia, te la pigli in culo, punto e basta. La signora Madonna, non ci arrenderemo mai, non cederemo mai l'America. Un tizio che è dei Public Enemy, che è un gruppo, si chiama Chuck D. Hitler è qui. Hitler è... Io godo per queste cose. Hitler è qui. Ma sai, godo. Ha ragione quello che ha detto. Godo. Le dichiarazioni di voto delle star sono controproducenti perché sono tutti ricchi, belli, famosi e con delle prima. Ville. Allora, Stevie Wonder. Vale anche per l'Italia, eh? Sì, Stevie Wonder, prima del risultato, Trump presidente è come chiedere a me di guidare. Signor Stevie Wonder, che era lì tutto affranto ieri. Che non ha la patente, tutto perché ha l'autista. No, dai, su. No, ma era lì tutto essendo affranto. Essendo cieco dici che è impossibile, beh, certo. Sì, certo. Affranto. Vabbè, ma è normale, è legittimo. Però, aspetta, Cher, come si dice? Cher, no? Cher. Cher, signora Cher. Mi sento come se ci fosse stato un lutto nella mia famiglia. Ma tu ti rendi conto il livello di puttanate che vengono dette però, da persone no, che però, vengono considerate no. delle icone, delle star? Però io tanto continuo a bere acqua. Come intanto, si fa a dire, cioè, mi sento come se ci fosse stato un lutto? Ma uno di queste qua non dovrebbe politica, mai essere ingaggiato. È la passione per our country. Ma vaffanculo, è la passione dai. Per il nostro, per il loro paese. È la passione. All'attore Chris Evans, o Evans, non so come cazzo si pronuncia esattamente, Capitan America, ha scritto su Twitter una notte imbarazzante per l'America. Abbiamo permesso a un razzista di guidare la nostra grande nazione. Abbiamo lasciato un bullo al comando. Sono devastato. Mia Farrow. Un presidente razzista. Ma tu ti rendi conto le puttanate? Ma ragazzi, ma stando alla sua campagna elettorale, dai, non era razzismo quello che ha detto? Cioè, in campagna elettorale? Tu sei qui pronto ad affermare che Trump è un presidente razzista? No, che è presidente lo vedremo. Se da presidente razzista, farà Trump, le cose. In campagna elettorale è stato e ha usato parole razziste. All'appoggio dei signori del Ku Klux Klan. Il signor Duke, il Ku Klux Klan ha detto votiamo. Mai ha votato per il Partito Repubblicano della storia. Il Ku Klux Klan mai ha dato indicazioni di voto, è stato lì con i loro cappelli bianchi e le torce neri pronti a bruciare qualunque. E questa volta hanno detto che avrebbero votato per Trump. Eccola, guarda lì delle immagini, la gente non le vede perché questa è radio, non è televisione. Stato per i coglioni, ma guarda qui questi sfascia carrozze europei, Farage l'inglese, la Le Pen, un'altra che è in politica da 15 anni e che è pronta a prendere l'Eliseo adesso. Guardali, guardateli anche voi che siete in macchina, anche se non potete guardare. Immaginate la faccia di gioia di questi personaggetti, come direbbe il grande Cro, personaggetti. Allora vi faccio ascoltare, un po' per cambiare argomento, le parole di un signore che si chiama Giancarlo Luciani e che è il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani di Latina. Ora, sembra assurdo, mentre in America ci si occupa di Clinton, Trump, queste cose, in Italia ancora c'è un dibattito che coinvolge l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Io ne sono, ho la tessera dell'AMPI. Ma tu hai la tessera delle peggiori organizzazioni. L'AMPI è meglio il Ku Klux Klan dell'AMPI, ti posso dire una cosa? No, questo no, questo non è vero. È meglio il Ku Klux Klan dell'AMPI? No, questo no. Almeno questo. Almeno perché ti fai prendere di parte la trampista? No, perché io non sopporto, no, non sopporto l'idea, non sopporto l'idea che si dia importanza all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Ma chi se ne frega di quello che pensa? Ma non ho capito. Ma quando Trump dice penseremo ai nostri veterani, cioè ai soldati che hanno combattuto contro i nazifascisti, non dice quello. Dice penseremo ai nostri delle ultime guerre, ai veterani, come in generale, tutti morti, ai militari, ai veterani che hanno combattuto per l'America, è un grande eroe. Senti quello che ha detto questo signore che ha fatto una manifestazione, sì, questo dell'Ampi, una manifestazione insieme ai fascisti contro Renzi. Senti, è un ducetto che vuole sopravvivere soprattutto. Di Renzi è come il duce, a peggio perché almeno peggio di duce. assolutamente. E lo dice, io sono il presidente comunale dell'Ampi, Luciano Giancarlo, ed è peggio. Cioè, questo è il presidente comunale, esiste pure il presidente comunale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Dai, iscritto all'Ampi, ti dico che è una sciocchezza. Sì, pronto? Signor Luciani? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Pronto? Mi sente? Sì, chi è? Scusi? Sì, qui Radio 24, buonasera. Buonasera. Buonasera. Il numero mio chi gliel'ha dato, scusi? Ma non mi ricordo, adesso siamo giornalisti, ce lo procuriamo il numero. Chi è lei, scusi? Mi chiamo Cruciani, sono qui con Parenzo, signor Parenzo. Che ha pure la tessera dell'Ampi, peraltro. La tessera dell'Ampi, Parenzo? Parenzo è la tessera dell'Ampi. Sono stato tra i fondatori a Padova dei circoli giovanili dell'Ampi. Sì. Una cosa che dovrebbe... No, in diretta? È su Radio 24, sì. Dieci anni fa, io a Padova, fondai, adesso raccontiamo la storia. Non frega niente a nessuno. Sì, importante. I circoli giovanili dell'Ampi li fondai io a Padova assieme al compagno Paolo Pannocchia. Vabbè, adesso se ce ne fottiamo. A Giuliano Lenzi. Su, signor Luciani, altri... le volevo chiedere una cosa, ma veramente lei pensa che Renzi sia peggio del Duce? Allora, l'ho già detto più volte. Lei non è il centro del giornalismo mondiale. Io assolutamente no. Assolutamente, che mai no. Detto di esserlo. Io ho ascoltato prima la frase che lei ha detto e mi sembrava chiara, questo dico. Allora, quella lì nasce da un intervento di 4 minuti che è stata strapolata, 14 secondi di filmato. Sì. 14 secondi di filmato, sì. Che non fanno capire assolutamente la natura dell'intervento dato da quel... Però Luciani, lei mi scusi se le suggerisco una cosa, per carità, ora lei può avere tutte le ragioni del mondo a dire che Renzi è peggio del Duce, però e questo di solito è l'argomento che viene utilizzato da chi dice una cosa, si pente di averla detta e dice no, però c'è il contesto. Lei ha detto è molto peggio del Duce, gliela faccio riascoltare se vuole. No, guardi, l'ho pronunciata io, quindi... Se lei è convinto che Renzi è peggio del Duce, lo può spiegare tranquillamente. C'è la generazione di una macchina del fango, della macchina del fango che praticamente prima è partita che eravamo con i fascisti di Forza Nuova. No, ma quello l'abbiamo spiegato, è un altro discorso. La macchina del fango è partita da lì. No, però scusi Luciani, quello è un altro discorso, abbiamo saputo che in realtà c'era una manifestazione autorizzata per tutti e due, non avete organizzato nulla insieme a Forza Nuova, però questo qua lasciamolo da parte. Per le prime 30 secondi è successo questo. Sì, ma lasciamo perdere, questo qua davvero non è un argomento che mi interessa, cioè il fatto che vi trovate nella stessa piazza è un po' imbarazzante. Sì, però ha fatto bene a dire che coi fascisti ovviamente quei fascisti. E d'accordo, però lei ha pronunciato queste parole, Renzi è peggio del Duce. Ora, siccome è una cosa detta da lei che è il presidente della Ampi di Latina, è una cosa, come dire, allora anche... innanzitutto è stato detto ducetto, no, poi ha detto anche duce, ha detto che per lei Renzi è un duce. Allora quel servizio è stato montato ad arte, capito? Non capisce, si capisce il senso per cui l'ho detto appunto. Perfetto. L'ha detto, perché è peggio, del Duce? No, diciamo una che lei è sfuggita, questo sta dicendo. Perché è peggio del Duce, secondo lei? Cioè, perché ci si avvia verso un autoritarismo se vince il sì? Questa era la spiegazione della sua frase? Luciani? Lo so che è imbarazzato perché ha detto che Renzi è peggio del Duce, però... Non sono assolutamente imbarazzato. Mi sembra di sì, cioè nel senso che uno che dice... La frizione parte un po' a tutti, dai, io riconosco gli amici e compagni dell'Ampi. Le partite alla frizione? Un po' a tutti parte. La frizione ce l'ho sempre giusta, Cruciani, non faccia il buffoncello. No, veramente l'ha detto Parenzo, buffoncello. Io sto dicendo semplicemente una spiegazione può essere... La frizione... L'ha detta lei la frizione? No, veramente l'ha detto Parenzo prima, però va bene, uguale, non cambia. Però scusi, Luciani, ha detto, secondo me, ha detto una cazzata. Ha usato un'iperbole, sono Parenzo che parla, ha usato un po' un'iperbole, diciamo così. No, io la frizione non l'ho perduta. Cioè lei pensa davvero che Renzi è peggio del Duce? Ancora, non l'ho detto, cioè allora, in un contesto così non si può estrapolare una frase, già l'ho detto varie ma volte. Ma non è, ma lei è così, allora, ha ragione, riascoltiamola. Ha ragione, ascoltiamo. No, lui dice il contesto, dovremmo riascoltare 20 minuti, non è che possiamo riascoltare 20 minuti. No, l'intervento è stato 4 minuti. Allora io dico semplicemente questo. Dica. E questa persona assolve in questo paese a due ruoli importanti. Il segretario del partito di maggioranza relativa. E vabbè, allora? E fa il primo ministro. Cioè, queste due funzioni. E allora, che c'entra con Duce questo? Cruciani, allora sei bravo, fa l'intervento. No, che c'entra col Duce? Questo qua può essere una cosa, a parte che succede anche in altre democrazie, ma non capisco che c'entra col coso di Duce. Mi fa finire il concetto. Avanti, andiamo. Mi fa finire il concetto. Certo, come no? Figuriamoci, ma io non sono mica amico di Renzi. Allora, voglio dire, una persona che fa il segretario politico del partito di maggioranza relativo, allora dovrebbe avere la capacità di comporre tutto il partito. E lo stesso quando una persona fa anche il primo ministro, deve comporre per il bene del paese di tutti i cittadini, rispettare la democrazia. Vabbè, ma è perché allora, non rispetta la democrazia, Renzi? Io ho detto che... Allora, ripeto... Luciani, scusi un attimo se glielo dico. Lei sta cercando delle parole che però sono, come dire, di spiegazione ad una cosa. Lei ha detto delle cose politiche che si possono ascoltare tranquillamente in una sezione del PD e va benissimo. C'è il dibattito su Renzi segretario... No, scusi, il dibattito su Renzi segretario e Renzi presidente del Consiglio. Lei però mi deve dare una spiegazione, se vuole, altrimenti dice no, non voglio dare nessuna spiegazione, arrivederci, grazie. Su una frase allora, che lei ha pronunciato, Renzi è peggio del Duce, o se ne pente, oppure l'argomenta, oppure non dice nulla. Se scelga. Io le ho detto, il comportamento del primo ministro, del segretario di maggioranza relativo... E sta andando evidentemente contro il rispetto di tutte le parti che compongono sia il partito stesso sia il paese, punto. Basterebbe dire, ma guardi, che c'entra, che è un po' esagerato, perché non si può dire che Renzi è un Duce, questo è il fatto. Ho un po' esagerato, magari lo pensa, magari pensa che allora è peggio. Io l'ho detto, non l'ho rinnegato, però ho detto va preso in un contesto di 4 minuti, ma basta, ho capito che dire. C'entra il Duce, lei si penta di aver pronunciato la parola Duce a latina. Ducetto, poi Ducetto, no, ha detto Ducetto. Anche che è peggio del Duce. Riascoltiamo, le faccio riascoltare. Aspetti che le faccio riascoltare. I nastri. Sono pochi secondi. Sono arrivati i nastri, un attimo, aspetta. Sono arrivati i nastri. È un Ducetto che vuole sopravvivere soprattutto... Renzi è come il Duce. A peggio, perché almeno... Peggio di Duce. Assolutamente. E lo dice... Io sono il presidente comunale dell'ANPI, Luciani Giancarlo, ed è peggio. Allora, non mi sembra che sia interpretabile in nessun modo. Lei addirittura lo argomenta, lo dico proprio io, che sono dell'ANPI, che Renzi è peggio del Duce, cioè di Mussolini. Cioè, scusi, Luciani, però abbia pazienza. Adesso lei ha detto buffoncello, non è il re del giornalismo. Luciani, ma o mi sembra... No, Luciani. Cruciani, a me ogni tanto mi chiamano Luciani, sai? Cioè, mi chiamano Luciani. No, io sono Luciani. Io sono Cruciani. Vabbè, io sono orgoglioso di essere Cruciani e lei è orgoglioso di essere Luciani. È normale che sia così. Allora, lei ha non parente di Papa Luciani, vero? Scusi, se interrompo. No, assolutamente. No. Però, scusi un attimo, mi sembra chiaro quello che lei ha detto. Ha detto che è peggio del Duce di Mussolini e ha tenuto anche a sottolineare, sono dell'ANPI, e dunque lo dico io, sì. Lo dico proprio io. Adesso, questo oggettivamente non si può dire che lei non l'abbia allora, detto. Allora, io in quel contesto stavo lì, rappresentavo l'ANPI, avevamo la legittimità perché avevamo il permesso. Ma chi ha detto niente? Chi nega questa cosa? Lei non vuole entrare nel merito di queste frasi, perché non vuole dire che ha detto una cazzata. Quello che volevo dire l'ho detto. Appunto, che lei pensa che Renzi è peggio del Duce, lo conferma? Gliel'ho appena riargomentato. No, non me l'ha riargomentato. L'ha detto e non l'ha riargomentato. Ha detto che è peggio del Duce di Mussolini. Cosa c'entra allora, Mussolini col, okay. col PD e col allora, Presidente del Consiglio? Allora come dire, ritiro la parola? Ritiro la parola? Che ne so, si scusi, di fronte all'Italia. No, che si scusi con Renzi. Si scusi con Renzi per averlo paragonato a Mussolini. Secondo me si dovrebbe scusare con Renzi per averlo paragonato a Mussolini. Magari lei ci crede invece. A che cosa? Al fatto che Renzi sia peggio di Mussolini. Ma scusi, capisco il suo imbarazzo. Lei è fortemente imbarazzato. Lo dica, è fortemente imbarazzato. Si sente. È palpabile. È un po' imbarazzato. È un po' come Trump stamattina quando gli hanno detto che era diventato presidente. Dice, come presidente? Non è vero. Non paragoniamo. Allora, diciamo, allora lei conferma che Renzi è peggio del Duce, sì o no? Non conferma che Renzi è peggio del Duce? Io gli ho detto, una persona che fa il primo ministro, il segretario del partito di maggioranza relativo, dovrebbe avere più rispetto. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Lei ha detto che Renzi è peggio del Duce. E comporre i conflitti. Se lei avesse detto questo, nessuno si sarebbe accanito su una frase. Dunque, non diciamo stupidaggini, Luciani, scusi, abbia pazienza. Lei avesse detto così, nessuno avrebbe detto niente e questa frase sarebbe caduta nel dimenticatore. Allora, rifacciamo la domanda che ha fatto quello che l'ha intervistata là in piazza. Allora Renzi è peggio del Duce? Le faccio la domanda. Renzi è peggio del Duce? Allora. Niente, non c'è niente da fare. Lei cerca di arrampicarsi sugli specchi. Ritiro la parola che ho detto. Cioè, lei sta facendo veramente una figura barbina, glielo dico, con franchezza. Una figura proprio oscena, perché io sto dicendo Renzi è peggio del Duce, lei non mi risponde. Ritiro quella affermazione. Si pente, okay. Chieda scusa a Renzi. Chieda scusa a Renzi, allora. L'ha paragonato al Duce, o no? Credo che Renzi, Renzi, voglio dire, non l'ho mai visto, per cui questo, perché ma non che l'ho mai c'entra visto. Col fatto che l'ha visto o no? Stiamo parlando di idee politiche, cioè, lei ha paragonato Renzi a Mussolini, o dice, sì, è vero, c'è un pericolo Mussolini, peggio addirittura di Mussolini, c'è Hitler peggio di Mussolini, non so chi ci possa essere, o ritira questa cosa, oppure dice, scusi Renzi, mi è scappata la frizione. La ritiro nel senso che chiede scusa a Renzi, chiede scusa a Renzi. Ritiro l'affermazione che ho fatto verso Renzi. Chiede scusa a Renzi. Scusi, dai. Signor Presidente del Consiglio, io la critico, però lei non è peggio del Duce, perché il Duce non c'entra niente, o no? Ho detto la ritiro. Sì, però io non voglio fare il suo ufficio. Cruciani, lei non deve fare l'avvocato difensore di cosa? Scoop su di lei adesso, con tutto il rispetto, caro Luciani. Con tutto rispetto per lei. Stiamo ragionando su una sua frase che oggettivamente è... Ritira l'affermazione. Dunque, si pente e chiede scusa a Renzi. Chieda scusa a Renzi. Non è grave chiedere scusa a Renzi per averlo paragonato al Duce. Cioè, non è una cosa grave. Se uno dicesse Renzi, un esponente di un'associazione che si chiama AMPI, che dice Renzi è peggio del Duce, uno dice, scusi, mi sono sbagliato, mi è scappata la frizione in piazza, ero lì con Forza Nuova, magari ho visto il Duce, ho visto l'apparizione del Duce. Forza Nuova stava molto lontana, stava a 50 metri. Ci stanno i filmati. 50 metri, una grande distanza. Comunque, non chiede scusa a Renzi, ho capito. Vabbè, non vuole chiedere scusa a Renzi. Allora, per il termine proprio l'ho ritirato? No, ma il termine l'ha ritirato. Ma chieda scusa, dica Renzi, mi è scappata la frizione. Può dirlo, mi dispiace. Lo dica, così almeno risolviamo questa questione. Così finiscono gli attacchi del PD. Se ho urtato la sensibilità di qualche persona, sì. Chiedo ufficialmente scusa. Chiedo scusa al Presidente del Consiglio. Vabbè, arrivederci. Alle persone che avrei... Ma è Renzi, lui. È Renzi il protagonista. Non è che chiede... No, il problema è questo, che Luciani Giancarlo può fare quello che gli pare. Luciani Giancarlo, come presidente dell'AMPI, chiaramente c'ha... Lei chiede scusa agli amici suoi, non a Renzi, guardi che lei è un tipo. Gli ho detto. Agli amici suoi dell'AMPI che si sono urtati, ma chi se ne frega di quelli dell'AMPI? Stiamo parlando del Presidente del Consiglio, lei l'ha paragonato a Hitler, peggio del Duce, chieda scusa, se non chiede scusa... Ma allora... Hitler l'ha usato lei, io ho usato solo la parola Duce. Certo che ho detto io, no, lei ha utilizzato pure la parola Duce. Guardi che è veramente incredibile. Comunque, vabbè, la saluto perché mi sono scocciato. Arrivederci, grazie. Trovatevi un lavoro, cazzo. La Zanzara. Sarò il presidente di tutti gli americani, però decido io chi è americano e chi no. Sto guardando la diretta in streaming, in silenzio, e accendo l'audio solo quando parla Parenzo, perché a sentire Cruciani che gongola non ce la posso fa. Trump merda, viva i silenziosi. Cruciani, ti bacerei in bocca, evviva, sì, come godo, ma di che cazzo state esultando? A che pro state esultando? Cioè, per il fatto che state eletto un miliardario troglodita di merda che come idee è 500 anni indietro, che comanderà senza capacità mezzo mondo, e voi esultate? Ma che cazzo di mondo di merda è? Evviva, sì, ti bacerei in bocca, Cruciani, mandatevene a fanculo tutti, va. Cruciani, ha vinto Trump, per 2 mesi qualcuno deve fare il nodo al pisellino. Razzista, sessista, evasore di tasse, ma ha anche dei difetti. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, Joe Formaggio è intervistato dalle Iene, uno dei Trump italiani, possiamo definirlo così, il signor Joe Formaggio. No, non insultare Trump. No, addirittura non insultare Trump. Non insultare Trump. Il signor Joe Formaggio, no, sindaco di Trump. Albettone, provincia di Vicenza, che recentemente qui la Zanzara ha detto delle cose. A me hanno detto che ad esempio il Ku Klux Klan, quando ha saputo dell'esistenza di questo Formaggio, sono sbiancati. Cioè sono diventati più bianchi dei capi cappucci che hanno delle tonache. C'è qualcuno più razzista di noi, c'è qualcuno davvero più razzista di noi. Joe Formaggio alle Iene. Lei ha detto anche che i negri sono meno intelligenti di noi. Dimostrami il contrario. No, lo dimostri lei visto che l'ha detto lei. Allora, quanti scienziati hai visto di colore? Io ho visto tanti di colore, bravissimi nei 100 metri. Allora, nei 100 metri, no, di corsa. A correre. Scusi, Kofi Annan, ex segretario dell'ONU, non era un personaggio degno di essere considerato di colore. Nelson Mandela non è un personaggio degno di essere ricordato. Allora, no, dica, no, risponda, mi risponda però, perché sono degni di essere ricordati, però una rondine non fa primavera. Ci hanno fatto diventare razzisti. Quando sono per le nostre strade, come si manterranno? Avranno delle esigenze sessuali e tutta questa... No, ma ascoltami, ma tu... Io addirittura le esigenze sessuali... E che... Allora, tu quanti anni hai? Avrai delle esigenze sessuali, no? Allora, ovviamente non erano le Iene che avevano annunciato un servizio su Joe Formaggio, un test di intelligenza a Joe Formaggio. Questo era l'ottimo Alessio Lasta. Sì, era Politics. Il fratello Alessio Lasta, bravissimo, grande. Comunque conferma tutto, Joe Cisa, conferma tutto. Gennaro Caserta, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi, dimmi. No, volevo dire a quel comunistello da strapazzo della tua spalla lì, Parenzo. Allora? È rimasto male purtroppo perché l'America ha vinto Trump semplicemente perché è un paese capitalista. Ma che c'entra? Non è come... E te lo dico io che c'entra. Ma che c'entra? Sì. Che cazzo c'entra? E se mi dai tempo di spiegartelo. Un paese capitalista, un paese capitalista. Dai. È capitalista come ma che paese. C'entra? Sì, che c'entra? Mo stanno inventando i muratori, le massonerie, hanno giocato il complotto, non è vero ma niente. Ma chi lo inventa? Chi non ne parla nessuno, ne parla solo Mandarà, cioè nel suo blog. Ma chi? Sinistroidi chi? I sinistroidi come Parenzo, come Mandarà. Ma non hai parlato del fatto di complotto. Tutta sta gente che costruisce le chiacchiere, no? Però va avanti da solo. Ma poi soprattutto costruisce le utopie nelle menti delle persone. Gennaro, ma di chi stai parlando? Di chi stai parlando? Sto parlando che... Allora, ti sto facendo l'esempio, no? Ma l'esempio di nulla! C'è il nulla nel cervello che hai! Parlare, ma c'è il nulla! C'è le pigne nel cervello! Ma lei da quanto è uscito, scusi? E tu che tieni nel cervello? Fammi parlare e ti spiego. Ma, no? Ma spieghi cosa che c'hai le pigne nel cervello. Ma che c'hai le pigne? Che c'hai le pigne? Che tu sei un cretino proprio. Che c'hai le... Ma purtroppo questo paese lo sai qual è? Perché qual è il problema? Dimmi. Qual è il problema di questo paese? Dicevo, che tanta gente vuole costruire il paese da dietro alle scrivanie con i microfoni in bocca come te, no? Sì, no, il problema è Cruciani. Vedi, caro Giuseppe, qual è il problema? La democrazia dà la possibilità a questo signore non solo di intervenire in diretta, Sava Sandino, all'800 24 0, ma anche di votare. Il problema è che a questo signore viene data la possibilità di decidere chi mi deve governare anche a me. Gennaro, questo che è dici? Un po' che il dici? Problema di fondo. Ma voi è bello perché sapete perché? Perché voi fate finta di essere dei Robin Hood della democrazia. No, Robin Hood. Però alla fine, io non faccio finta affatto di essere Robin Hood, me ne fotto. Sai perché? Perché tu prendi uno stipendio da capogiro, no? Gennaro, posso dire che sei un imbecille? Posso dire che sei semplicemente un imbecille? Perché ti sto dicendo la verità. Sei un imbecille. E tu se non credi, tu hai portato la tua barca su. La tua barca? Io non ho barche. No, prendi 12-13 mila euro al mese. A fare il coglione. E c'entra, te lo dico io che c'entra. Ma quante pigne ci sono nel cervello? 2, 3, 4 pigne oppure una pigna grossa di dimensioni? Cruciale, io posso averci tutte le pigne di questo mondo. Dai, però su, Gennaro. Fatto che è così. L'Italia è stata rovinata proprio da quelle persone di sinistra, tipo come Parenzo, come tu un po', che fai finta di essere un po' dall'altra parte, di tutelare la controindustria perché ci lavori. No? Ma di che stai parlando? Stai delirando, sei un poveretto. Ma che sono che delirà? Però, ma ti pare che ma tu che fai tu di mestiere? Il telefonista della Zanzara, che fai? Lascia perdere quelli che il chiamatore della Zanzara, che fai? Che fai? Che fai di mestiere? Che cosa fai di mestiere? Ma perché non esiste un'elite, no? Un'elite di potere, no? Ma che fai? Che fai? Perché non lo vuoi dire? Che fai? Cose brutte? Che fai? Cose strane? Che fai? Mica fai lo spacciatore? Mica fai lo spacciatore? Cruciale, io faccio un lavoro come lo fai tu, onestamente. Appunto. Però il mio è un lavoro onesto. E perché il mio che cos'è? Che cosa fai di mestiere? Il camionista, cosa fai? Il lavoro tuo è un po' rubato. Non lo vuoi dire? È un lavoro nascosto, lavoro in nero. Perché non lo vuoi dire? Prendi al mese a fare. Perché non lo vuoi dire? Perché non lo vuoi dire? Gennaro, perché non lo vuoi dire? Vergognati, perché non lo vuoi dire? Ti vergogni? Ti vergogni, forse ti vergogni a dire che cosa fai? Ti vergogni a dire il mestiere che fai? Ti vergogni a dire il mestiere che fai? E allora dillo, che mestiere fai? E tu quando prendi al mese? Ma sono cazzi miei, sono cazzi miei. Quanto? Allora tu dici quanto prendi al mese. Ma che vuol dire? Sono due cose diverse. Non hai il coraggio di dire quello che fai. Chi te l'ha detto? Perché un po' ti vergogni a dire quello che evidentemente ti vergogni. Ma chi te l'ha detto che mi vergogno? Io sono orgoglioso del mestiere. E perché non lo dici allora? E tu perché non dici quanto prendi al mese? A fare i coglioni in radio. È impazzito, ciao Gennaro. Saluti. Ormai non ho più relazioni di sorta, solo solitudine e zanzare. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Comunque ragazzi, oggi un elettore di Hillary Clinton si è presentato a casa di Madonna nell'Upper East Side a Manhattan per ricevere il pompino promesso dalla cantante a chi avrebbe votato la Clinton. Naturalmente è stato fermato da uomini della sicurezza di Madonna che lo hanno allontanato. Intanto Parenzo si è imbarcato sul taxi in direzione Gabbia sulla 7. C'è Gabbia Open in realtà, però vabbè, ve l'ho detto, Gabbia Open sulla 7, dove ragioneremo e discuteremo pacatamente. Sì, pacatamente, sì. Lì sono tutti i clintoniani, mi hanno detto, alla Gabbia Open. Sì, discuteremo di Trump. Allora, Mauro Forlì, vai Mauro. Buonasera Cristiani, buonasera Parenzo. Volevo dirti riguardo al discorso che avete fatto ieri. Sì, che riprenderemo domani prestissimo, oggi ci siamo concessi una puntata circa, così. Circa la sottoscrizione per il carabiniere che ha ucciso quel ladro. Sì, domani la promuoverò ufficialmente. Grande raccolta di fondi, di soldi per il carabiniere. No, io sono contrario, perché ti dico una cosa. Cucchi ucciso in una stazione di polizia, Magherini ucciso in una caserma dei carabinieri, le prove false messe dalla polizia. C'entra? Come cosa che cazzo c'entra? Facciamo una colletta per la mamma di Magherini, che non può neanche cosa pagare c'entra? La pensione. Ma ognuno fa le collette, ognuno fa le collette perché... 100 euro per il carabiniere, ma lascia perdere, 1000 euro per il carabiniere, le nefandezze che fanno questi personaggi. Mauro, se non ti va questa cosa, non contribuire, ma non ci rompere i coglioni. Aldo Brandi, Magherini, nessuno ha parlato mai di questi personaggi. Ma come nessuno? Ma se ne parla sempre, ma non dire puttanate, dai, su. Sei un fascista che dice guarda, sono fascistissimo. Tu sei un fascista e giustifichi anche l'attacco alla Diaz di Genova. Ma messi il sovrintendente Ferri, Mauro, ma che ti è preso ma che ti è preso stasera? Non ho capito. Ma perché sei impazzito per questa cosa? Non ho capito. Il tax ville. Senti, amico mio, io domani promuoverò questa raccolta di fondi per il poliziotto, per il carabiniere. Che ti piaccia o no? A me non mi piace. E chi se ne frega? Hai ragione, bravo, bravo, bravo Cruciani. Ora riattaccami il telefono. Ma figurati, stai parlando. È tre minuti che stai parlando, ma che dici? Ti dico soltanto un'altra cosa. Vedi che sei libero di parlare e di insultarmi anche. No, io non insulto nessuno. No, per carità. Voglio la parità, capito? gente uccisa in caserma, non per la strada come quel ladro, uccisa dentro una caserma che dovrebbe essere un posto. Vabbè. Che ti lascio, ti lascio, amico mio. Non sai che dire, non sai che dire. Sì, non so che dire, certo. Non sai che facciamo una, per Magherini una colletta, per la mamma di Magherini. Vai a fare un vai a prenderti qualcosa di caldo, dai. Vai a prendere qualcosa di caldo. Ciao Mauro, qualcosa di caldo. Allora, caro David, ha esultato come per una partita della Juventus di fronte alla vittoria di Trump. Era lì in fibrillazione, come per una partita di calcio, come i rigori ai mondiali. Antonio Razzi, buonasera! Buonasera, come andiamo? Amici. Come andiamo? Ma come è passato questa nottata? Dimmelo, hai esultato com'eri? Dimmelo. Questa notte dalle 2:15 che sto sveglio e ancora vado a dormire. Non ho voglia di dormire perché ci tengo ancora che la voglia di festeggiare. Ma addirittura ha vinto le tute blu. Come le tute blu? Scusa, che c'entra le tute blu? Gli operai. Ma come, Parenzo? Hanno vinto gli operai, Parenzo? Ha battuto la finanza americana e tutta le assicurazioni. Ma hanno spiegato, ma qualcuno ha spiegato è giornale. Come il giornale? Amico caro, il signore numero uno. Sì, che è? Perché il signore che ha vinto negli Stati Uniti è un miliardario che addirittura c'ha una torre che porta il suo nome, non è esattamente una tuta blu. Lo conosco. No, ma quelli che l'hanno votato sono tutti gli operai. Hanno votato gli operai, hanno cambiato. Cioè, stai dicendo che Trump ha portato gli operai al potere, scusami Antonio. Ma no, è che gli operai l'hanno votato perché credono in un genio, come il genio Berlusconi. Lui è un genio. Ma chi è più genio, Berlusconi o Trump, secondo te? Secondo me è Berlusconi. Quella è una cosa assodata. Però lui ha la stessa cosa in America. Ha fatto grande. Senti, ma dunque Madonna che fa con questi pompini che voleva fare? Ma quello l'ho sentito. Ma certo che Madonna deve cambiare pure mestiere. Scusa che è pure di origine abruzzese. Ma come si permette lei a dire appunto che vinceva la Hillary? Ma dove va? No, veramente ha detto che vinceva la Hillary, faceva il tifo per Hillary. Ma ha detto anche che ha promesso agli elettori, a chiunque avesse votato per Hillary Clinton, un pompino, caro Antonio. Vabbè, io non l'ho votato. Ma tu te lo sai? No, non te ne frega niente. A me magari all'amico Parenzo. No, Parenzo no. Lui è manco americano. No, lui tanto non votava. Guarda, devo mangiare, sono al ristorante alla Canaria, ha ordinato una grigia. Comunque, una grigia, che vuol dire una grigia? Ha dovuto fare la marchetta al ristorante. Scusami un attimo, ma voglio capire una cosa. Ma com'è con la Corea? Com'è messo con la Corea del Nord, col dittatore Kim Jong? Guarda, adesso c'è Puoi fare da mediatore? Io posso fare da mediatore e sicuramente cercherò di farlo. Tra Trump e Kim Jong-un? Kim Jong-un, cerco di farlo colloquiare perché lui ha già. Tu stai dicendo che cercherai di far colloquiare insieme il signor Trump. Con Kim Jong-un. E come cazzo fai? In che lingua, innanzitutto? Quello parla il coreano, quell'altro parla l'inglese. No, lui parla anche tedesco. Lui parla anche tedesco. Ich spreche Deutsch. Ma chi spreche Deutsch? Io parlo tedesco con lui. Non c'è ma problema. Con chi parli tedesco? Pigliamo con Trump. Quello parla coreano, quell'altro parla inglese. Tu parli tedesco, ma dove cazzo potete incontrarvi voi tre? No, ma Kim Jong-un parla tedesco. Ah, parla tedesco, parla. Sì, ci ho parlato io. Parla tedesco, lui ha studiato a Berna, figurati. Cioè, Kim Jong-un, stai dicendo, il grande dittatore della Corea del Nord, parla tedesco. Che problema c'è? Uno che ha studiato lì a Berna, ha fatto l'università lì. Vabbè, ma saprà due parole in tedesco, no? Comunque tu farai da mediatore. Io cerco di fare, ecco, cerchi di fare, beh, certo. Guarda, un abruzzese che cerca di mettere pace tra le due Coree e che l'America porta il presidente americano a cercare di vuoi organizzare il viaggio di Trump in Corea, non l'ho capito. Sì, ma tu lo sai che oggi fa 27 anni che il muro di Berlino è crollato? E adesso è crollato quel mito di potere che gli americani avevano. Ma non è vero, perché... ma che potere di che cosa? Cosa è crollato? È crollato il mondo bancario. Il mondo bancario è crollato, ma non è bancario, non è crollato perché, nulla. No, perché tutti i giornali, tutte le banche americane lo facevano per la Clinton. È rimasto fottuto. Sarà sorpresa in quel posto. bravo. Ma scusa un attimo, amico mio, ma e poi abbiamo anche la signora Melania Trump, La signora Melania Trump. È una bella donna. Ma è una bella gnocca, sì, una bella gnocca. Tu l'hai detto tu. No, ma tu, sicuramente. Tu intende perché so che sei un esperto. No, io purtroppo devo fare per due mesi, devo fare. Chiuso tutto. Ho chiuso baracche e burattini. Baracche e burattini per due. Sì, per due mesi ho fatto questo. Se vinceva Trump, ho detto faccio astinenza sessuale per due mesi. Che devo dire? Ma guarda, io invece non vado ancora a dormire, non voglio di dormire. Ah, non hai voglia di dormire? Io guarda, se facevo 6 all'Enalotto non ero contento come sono contento con la vittoria di Trump. Cioè, se avessi vinto all'Enalotto, al Super Enalotto, non ero nemmeno contento. Non ero nemmeno contento. Sono felicissimo. Vabbè. Comunque, amico mio, cioè, che ti devo, sei felicissimo. Cioè, meglio di una scopata, meglio di una scopata la vittoria di Trump. Ma sicuramente, guarda, quando Trump ha vinto, meglio di un orgasmo. Un salto, io stavo allungato sul letto, ho fatto un salto e si è rotto pure il letto. Fa finire che l'hotel mi fa pagare il letto. Cioè, hai rotto il letto, è sprofondato il letto per la vittoria di Trump. Cioè, assolutamente meglio di un orgasmo, diciamola. Ma sì, è la verità. Quella, cioè, è una grande soddisfazione. Come si dice in abruzzese, se avesse fatto una scopata non sarebbe riuscita così bene. No, mi era così contento. Invece poi sono contentissimo, Mamma mia, meglio di una scopata. Vabbè, amico mio, ti saluto, ciao Antò. Ciao. Allora andiamo a Treviso, Eddie, vai! Dimmi! Pronto? Vai, dimmi! Volevo dirti una cosa, se Trump è razzista o meno, per questo penso solo il tempo potrà dircelo. Ma una cosa è certa, Melania Trump è sicuramente una gran bella gnocca. E vabbè, allora? No, sinceramente volevo fare un discorso un po' più serio, non so se c'è Parenzo. Sì, c'è Parenzo, allora? È da oggi che sento un po' di notizie, ma secondo me ha inciso anche il fatto comunque che Hillary Clinton sia donna, sai? Ma che vuol dire ha inciso il fatto che è donna? Cioè, non capisco cosa vuol dire. Vabbè, Filippo da New York, dai, Filippo, New York. Dai, Filippo, dimmi. Dai, sì, stavo facendo il caffè, no? Che aspetto e... Dimmi. Ti chiamavo perché tutta la notte, anche noi tutta la serata, dunque a pochi isolati da quartier generale di Trump, a seguire questa faccenda. Viviamo a New York, ma seguiamo la zanzara. Ora, noi abbiamo spesso, diciamo, ragioni per essere d'accordo con te, parlo personalmente, però su sta faccenda di Trump, secondo me, non sei capito una minchia, proprio neanche. Cos'è che non ho capito? Scusa, posto che io voglio capire qualcosa, che cos'è che non avrei capito? Allora, intanto tu fai sempre questo grande focus sul concetto. Ma ragazzi, però io veramente l'approfondimento alle 19, alle 20 e 48, no. Cioè, ti prego, l'approfondimento alle 20 e 48, non me ne frega un cazzo. Dimmi una cosa concreta, concisa, che vuoi dire? Cosa vuoi dire? Questo voglio dire, non mi ma cosa? Parlando. Cosa vuoi dire? Non ho capito. Hai detto semplicemente siamo a New York, ascoltiamo la zanzara. Tu di Trump non capisci un cazzo, va bene. Poi? Allora, Trump non è altro. Berlusconi 20 eccola qua, anni dopo. Ecco l'analisi delle 20:49. Avanti, l'analisi delle 20:49. Berlusconi 20 anni dopo, avanti. Senti Filippo, mi hai rotto i coglioni. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani. Cruciani e Parenzo, andatevene a fanculo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. Libera la voglia di fare.